טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Abbiamo superato da due minuti le 21 di questo giovedì 7 febbraio 2013. Buonasera da Agostino Spolaore e buonasera come di consueto dal mio ormai fedele compagno, il nonnetto di questa emittente. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino. Beh, giochi sul quegli nonnetto, occhiali eh. Ti donano davanti. Sì, doppi occhiali, sotto uno sopra. Buonasera anche a te Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, buonasera a tutti voi che siete sintonizzati in questo momento nelle frequenze di 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, oppure ci state ascoltando in streaming semplicemente perché siete collegati nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, e se avete così ci state ascoltando vuol dire che avete cliccato su Ascolta la radio, ma comunque potete curiosare all'interno del nostro sito, troverete tutte le informazioni inerenti alla nostra regione, ma anche i podcast, troverete le recensioni, insomma c'è un po' di tutto per quanto riguarda la musica e poi anche gli eventi che possono capitare, insomma anche qualcuno fuori dalla nostra regione. Poi ancora le nostre pagine su Facebook, cioè Blu Radio Veneto semplicemente, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che salutiamo caramente. E già vi anticipo che la settimana prossima io e appunto Alberto saremo in quel di Sanremo, cercheremo di strappare qualche informazione per quanto riguarda questi vari artisti che sono lì e insomma ci siamo fatti questo grande regalo, per noi è un onore essere lì a Sanremo. E poi ancora vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, e mentre se volete mandare un sms ai nostri ospiti di questa sera che vengono da Genova, ma ne parliamo tra qualche istante, vi ricordo il nostro numero di sms, vi ricordo è il 346 23 20 0 33. Se invece volete risparmiare i soldi, io lo dico sempre, se volete invece di mandare risparmiare i soldi per mandare l'SMS, potete tranquillamente farlo tramite Facebook. Io sono collegato a Agostino Spolaore, ma c'è anche la radio, c'è lo stesso artista che adesso lo presentiamo, insomma potete scrivere anche lì, così risparmiate anche questi soldi. Noi saremo ben felici di leggere i vostri messaggi. E a questo punto devo presentare un caro amico che è stato, come dire, un parto lungo durato più di un anno, insomma alla fine ce l'abbiamo fatta, dovevamo incontrarci ancora un anno fa circa, sì, ma insomma per poi per varie vicissitudini non è stato possibile, ma questa sera ce l'abbiamo fatto, si è fatto un bel po' di chilometri, ma questa sera abbiamo Zazza, o meglio Gennaro Esposito in arte Zazza. Ciao carissimo. Ciao Agostino. Parla vicino al microfono per cortesia. Eccolo. Ecco di qua. Siamo arrivati. Sei arrivato finalmente. Ci abbiamo messo un anno e mezzo, ma c'era coda. Molta coda. Chi ti sei portato questa sera? Guarda, questa sera sono con Dario La Forgia al basso, che è qui vicino. Simone Besutti alle percussioni. Ciao. Questa sera l'esordio con noi subito, bello difficile, Manuel Perasso, chitarra elettrica. Ciao. Che comunque non è un novizio lui, perché è già stato qui con Antonio Clemente. Ha già calcato le scene che di Blu Radio. Che salutiamo subito Antonio, approfittiamo per risparmiamo qualcosina su Skype. Ah, ecco. Hai visto che è lì che ci sta ascoltando. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Allora, Maurizio. Zazza, bello. Musicalmente hai fatto un sacco di cose, ma a me interessa una cosa importante: suoni dappertutto, hai continuato a suonare, continui a suonare dappertutto, musicalmente ti sei formato suonando, questa è la tua base, una cosa meravigliosa, perché suonare è la roba più importante per un musicista secondo me. Come è nata l'idea di suonare sempre in continuazione? È nata dall'esigenza di farlo, semplicemente, e io ho iniziato con lui tanti anni fa con il nostro bassista qui presente, sì, che è un bellissimo fa basso Fender, come piace, sì, a me, bello, sì, bello, sì, colorato, bello, il basso più ricercato della Liguria. Ecco, perfetto. A suonare, il basso è il bassista più il bassista più ricercato della Liguria. E non e tanti anni fa le cover, io tutti dicono che io sono un anti cover, ma non è vero, le ho fatte anche io all'inizio, però morte proprio sul nascere, non mi soddisfacevano e ho lasciato stare, ho subito dato una mazzata, subito messo lì e a fare i pezzi miei, e con lui da sempre, subito dopo abbiamo trovato nella famiglia, è arrivato Simone Besutti, nostro percussionista, scoppietto, ormai siamo scoppietto bravo, ormai le sa tutte, e poi sono cambiate le formazioni. Diciamo che il nucleo è questo, si può dire che tutti hanno una band, io posso dire di avere una famiglia. Certo, certo. Ma la band è una famiglia in genere. Quando famiglia. C'è il gruppo, l'unione, diventa una famiglia. Finché e comunque, riesci a mantenerla, sì. Finché riesco a mantenerla. Devi parlare vicino al microfono. Vicino. Sì, sì. Ecco, dimmi. Dimmi la frase. Finché riesci a mantenerla. Finché riesci a mantenerla. Sennò poi via. Ok, questa è una richiesta d'aumento. Sotto. E niente, ci piace suonare, lo facciamo. Appena c'è l'occasione ci si infila, se non c'è l'occasione la creiamo. Tu hai un discorso importante di non voler fare le cover. Tu hai fondato, hai continui un concorso, una manifestazione, si chiama Zero Cover. Importante, Zero Cover, cioè zero niente cover, pezzi solamente inediti. Solo inediti, dunque, ma non per questo solo cantautori. Dunque, un po' di tutto, insomma. Un po' tutti i generi. Ora, in questa edizione 2013, sono stati dei gruppi che, per esempio, hanno fatto dell'elettropunk. Bello l'elettropunk, interessante. Martedì scorso c'erano due chitarre acustiche. Poi c'è chi è venuto con piano e filcorno. Insomma, varie cose molto diverse, però inedite. L'importante è che non siano cover, ma non per una cosa contro chi fa cover. Come loro hanno il loro spazio, io volevo uno spazio per noi. Siamo diventati adesso da poco finalmente un'associazione culturale che si chiama Movimento Musicale Inediti Indipendenti, e Zero Cover è il claim di Zero Cover, e c'è anche quello, un Facebook, dunque se volete vedere cos'è, c'è Zero Cover Genova. Che sei tu il fondatore comunque. E sono io, sì. È un discorso poi che più avanti riprenderemo. E questo è il quarto anno. È una bella cosa, quarto anno. E siamo io con la mia, diciamo, è stata l'idea, ma sono stato comunque appoggiato sempre da loro, certo. Da Dario, Simone, gli altri, e poi altri cantautori che anche Agostino conosce, come di nuovo Antonio Clemente, certo. Matteo Conta, e che ti Mauro saluta. Cipri mi ha scritto. Sì, Matteo, sì, Matteo, grande Matti. Che Matteo Conta, un abbraccio dei Zazza Terapia. La Zazza Terapia l'ha inventata lui, perché ti dice che quando io lo abbraccio sta meglio. Sì, allora tutti sono rimasti incuriositi e io vado in giro più che a suonare, abbraccio ad abbracciare gente. Tutti qua, sì, mi chiama, bene. Vorrei aprire una spa e chiamarla Zazza Terapia. Zazza Terapia. Ciao Matteo, probabilmente l'avremo qui il 21. Bene, no, bene, sono felicissimo. Ma lo diamo ufficialmente tra qualche giorno. Grande Matteo. Tu hai suonato parecchi posti, hai celebrato certe manifestazioni importanti. E una cosa interessante, sei andato a Santa Tecla, che è un piccolo, un mondo particolarissimo, il Santa Tecla. Sì, è un teatro. È un teatro molto, molto bello. Sono stato, grazie all'amica Stefania Schintu, che saluto. Che saluti. Una bravissima ragazza, una giornalista, un ufficio stampa. Sì, sì, collaboro molto anche io. Sì. Sì. E ai tempi mi aveva chiamato per dividere la serata con lei in questo posto, e sono andato molto volentieri. Poi dopo ho saputo che cos'era un po'. Cos'era? Sì, ecco, cos'era. Te lo dico sinceramente. Una delle basi della musica d'autore, assolutamente. Fantastico. Un posto, quindi Iannacci, Gabe, Celentano. Quindi grande, un posto importantissimo, fondamentale. Sì. Molto felice di esserci passato, ecco, anche da lì. Sì, mi caccio nelle situazioni più estreme. L'importante è buttarsi. Poi è buttante buttarsi. O ti fai male o va bene. Beh, insomma, se sei arrivato a quei livelli vuol dire che te lo meritavi, quantomeno, giusto? Ah, ti ringrazio per la fiducia. No, ma dobbiamo ancora suonare. Beh, ma il disco l'ho sentito. Però me lo prendo adesso, così dopo. Il disco l'ho sentito anche Maurizio, infatti ti ha fatto quella recensione. Sì, è una bellissima, vi ringrazio anche dal vivo. Sì, perché io ho sentito il disco più di una volta e ho capito che tutta la musica che fai, disco è questo, poi c'è il disco nuovo, si sta costruendo, eccetera, però musicalmente così è proprio la chiave di volta della musica live, cioè tu suoni dal vivo spesso e volentieri e si sente nei pezzi che tu hai inciso, si sente. Sì. È un collegamento totale. Ma effettivamente io devo, grazie a loro comunque, che esiste questo CD, perché noi siamo andati subito a suonare, subito da vivo, in tutti i posti. Poi dopo ho detto, però un CD potremmo anche farlo, visto che facciamo un sacco di pezzi, serate, potremmo farlo. Io subito, no, perché i CD cosa lo fai fare, non se ne vendono. Comunque era un po' titubante, comunque poi gravitavo intorno allo studio dove poi è stato fatto. È stato inciso. Il studio, che salutiamo e ringraziamo, di Rossano Villa, e anche lui ha contribuito a dire dai, facciamolo insieme, lo ringrazio ancora, che è stato un bellissimo lavoro, e poi l'abbiamo fatto, dunque l'ho suonato l'ho registrato e ora lo stiamo risuonando e tutti quelli che abbiamo stampati, guarda, vi ho portato le ultime copie qua. Bene, è una cosa molto positiva questa. Sì, sì. C'è la crisi, però le hai vendute tutte. Sì, perché ho fatto tante serate, ma io vedo che anche i grandi nomi, si comincia a vedere quelli che erano spariti, sono tornati a suonare perché il piatto piange. Eh sì, bisogna fare serate per vendere i dischi, c'è poco da fare. E allora infatti comincia a vedere, porca miseria quante date che fa quello lì, ma come mai ha di nuovo voglia di suonare, no? Chiaro, chiaro. Insomma, quello che facciamo noi, ora hanno cominciato a lavorare anche gli altri, esatto. Benissimo. Agostino, cosa dici? Partiamo con un pezzo da disco. Io sono pronto, stavo proprio guardando qui la tecnologia nera qui che abbiamo, dove c'è inserito il supporto, si dice così, fisico. Sì, fisico. Guarda, questo pezzo che inizia è nato proprio perché non sapevamo cosa fare. Come primo pezzo, allora ho detto, ci scrivo una canzone su come aprire una serata. E è nata questa canzone che si chiama Notte Blues, e in cui ci sono anche vari, che è l'ultima mi pare dal disco, è l'ultima, è l'ultima, il CD è l'ultima, la penultima perdono, cioè in fondo praticamente l'ultima in fondo è una canzone in fondo. In come fondo. Mai la scaletta è in fondo, perché in realtà la facciamo alla fine. Ah, ho capito. Poi è cambiato tutto, vedi, è la vita che si, tu ti fai un'idea, un programma, poi va tutto al contrario. Dunque fai il programma al contrario come lo vorresti fare, va tutto come deve andare. E Notte Blues è praticamente una jam session. Sì, sì, è assolutamente una jam session. Esattamente. E qui dove ci sono tutti gli altri musicisti che hanno partecipato a questo disco. Quasi tutti i chitarristi, come dire, in questo pezzo esprimetevi al massimo. Invece che viene dal blues, dal jazz, dagli altri. C'è Sara Grimaldi, sì, la corista, che ha una bellissima voce, la corista, certo. Proprio mi strappa la schiena, come si dice. E la saluto perché so che ci sta ascoltando, come sicuramente. Sara Grimaldi. Ciao, sì, Sara, un Sara bacione da tutta Blu Radio Veneto. E poi c'è Paolo Magnani, chitarra elettrica, Fabrizio Cosmi, Laura Marzano. Ci sono Roberto Scali, la batteria. Matteo Caso, grazie, che poi cioè, sono così tanti che poi ci dimentichiamo. Bene. L'ascoltiamo allora. Alla grandissima. Ok. Buonasera. Buonasera signore e signori. Buonasera a tutto il bar. Buonasera alla cameriera che sorride, poi scrive, poi va. Buonasera, baciamo le mani al gestore che ci fa suonare. Buonasera, vi giuro, puliamo poi se versiamo la birra quella. Buonasera a chi batte le mani, buonasera a chi no. Non ho ancora sentito il famoso accendino che sciafola sul tavolo. Buonasera agli incravattati come cani al guinzaglio. Buonasera agli innamorati abbracciati, ma dove se ne va il loro sguardo? Buonasera. Dove se ne va? Buonasera all'ultima fila, condoglianze alla prima. Che volume di Angelina dovrà sopportare? Buonasera, io sono Gennaro, cantautore mannaro. Sempre appresso a un amore lontano, per me il paradiso è un divano. Buonasera, Bassano, le luci, forse arriva una torta. Buonasera, Bassano, le luci, occhio, forse arriva una mano morta. Già. Sì. Buonasera alla bella che arriva con il fare da diva. Dietro segue la buona fattina che in fondo è una strega cattiva. Buonasera a chi ha lasciato a casa una guerra privata e ora cerca uno sfogo d'amore tra gli ultimi tavoli della sera. Buonasera a tutti i piedi che tengono il tempo, a chi rimbalza tra gioie e dolori aspettando che arrivi un punto fermo dagli occhi blu. Blu, dagli occhi blu. Mangiate tutti i salatini, e bevete di più, che magari il gestore ci paga qualcosa in più. Noi l'affitto dobbiamo pagare, suonare oggi è dura. Non si vive più di solo amore, se lo avessi incontrato giù me lo sarei fatto bastare. Già. Buon lavoro ai rapinatori, puttane e pappone. Sogni d'oro ai sognatori, buono smercio ai spacciatori. Buonanotte scrittori e cantanti e a chi vi ha ascoltato. Buonanotte a tutti gli amanti che hanno sudato. Buonanotte insonne luna, va alla sua finestra. Piano piano poi bussare al cuore, dire di fare in fretta a tornare da me, solo da me, da me, solo da me. Buonanotte, notte, notte anche a te. Eccoci qua, allora siamo in diretta, sì, siamo in diretta, sono le 21:19 in questo preciso istante con Gennaro Esposito in arte Zazza, la sua band. Questa sera sono venuti a trovarci da Genova e stiamo ascoltando la musica che ci propone da questo disco, che poi tra l'altro, tra virgolette, è già vecchio, insomma, se mi consenti l'espressione, Zazza, perché insomma è uscito nel 2010, mi pare. Sì, 11. 2011 e si intitola così. Io intanto devo fare i complimenti a tua mamma, perché sì, messo... che ci sta ascoltando. Ciao mamma, si chiama? Rosaria. Rosaria, ciao mamma Rosaria, sei bellissima, una foto veramente molto bella. E davanti anche c'è papà con te. No, quello è un suo amico. Ah, un suo amico. Un suo amico, sì sì. Insomma, una copertina fuori dai generi, insomma. Sì, guarda, la copertina è, hai detto tu, ci sono i personaggi davanti, mio padre dietro mia madre, siccome è loro dedicato, e sono foto in un colore seppia, e sono foto antiche. Uh-huh. E la grafica comunque l'ha gestita qui Simone Besutti, che oltre ad essere percussionista è grafico, la sua passione. No, no, è il suo lavoro, è il suo lavoro. Ah, proprio. Comunque te lo spiega meglio lui. Beh, no, sì, è stato... Mi avvicino? Sì, sì, okay. Sì. Abbiamo fatto sto lavoro, sì, è stato un lavoro lungo, però ci siamo divertiti, abbiamo fatto un full immersion in studio, tutte le teste, quindi trovare tutte le soluzioni, le foto, eccetera, però è stato un bel lavoro, nel senso che è stato proprio di gruppo, ognuno ha messo il suo e io piccato ci ho messo gli occhi e, e la stanchezza, però è venuto proprio bene, nel senso, certo. Io sono molto soddisfatto e loro credo anche. C'è anche la dedica a mio padre e a mia madre con immenso amore, alle mie sorelle e i loro sguardi interrogativi mentre gli spiegavo cosa stessi facendo. Spero che adesso abbiate capito. Vi adoro. E poi ancora a Dario la forza che da una vita rende bello la mia. Giusto? Giustissimo. E questa. Questa ti segna. Sì, è così. Infatti io non smetto mai di ringraziare anche oggi mentre venivamo su... pensavo io, però sono fortunato a prescindere comunque. C'è gente che non lo può fare perché comunque non trova le persone con cui farlo, e che già è una fortuna questa, certo. Avere qualcuno con cui fare una cosa che ti piace e che ci crede, e che ci crede, che lo fa con gioia, con... Non è poco, davvero non è poco, assolutamente. Notte Blues è un pezzo praticamente che come si usava una volta, come si faceva una volta, questo, questo condividere assieme a fare un pezzo, una jam session come abbiamo detto, pezzo assolutamente dal vivo, inciso per il disco così per caso, ma poteva essere sicuramente un live fatto in questo momento. Esattamente, infatti è nata così, è pensata proprio per il live, descrive una situazione in un locale, di quello che arriva, versa la birra, bevete di, mangiate di più così il gestore ci paga di più, insomma, un esatto, po' di frecciatine di cose che noi viviamo. Alla fine. Beh, chiaro. Sono un po' quello che viviamo messo in una maniera un po' più leggera, non, insomma, un po' più blues, che comunque si fa sempre ascoltare in locale. Sì, blues fa sempre bene alla salute, diceva qualcuno. E viene ascoltato anche con piacere, vediamo che ogni volta lo facciamo. Il bello di questo disco è che ognuno ti chiede una canzone diversa. Dice, ah, ho capito. Di questo disco a me piace questa. E in genere tutti dicono la stessa. Invece qua ognuno ha una canzone. Questo è bello. Questa... Qui infatti è una delle cose più belle. Delle vuol dire che hai fatto breccia su tutte le canzoni. Con tutte su le canzoni. Varie, sì, su vari aspetti. Ma come sono nate film. Queste canzoni? O come nascono in generale le tue canzoni? Sono fatti che ti accadono? Vedi qualcosa, ti ispiri o stai facendo la spesa? Ma che ne certe so. Nascono in Vespa, ecco, la Vespa ti forse. Fermi col no, telefonino dire, boom, sul lavoro mi fermo signora io faccio il salmiere no? per sopravvivere diciamo e per vivere sentirmi vivo musica. Però magari capita che arriva la signora e fa aspetti un attimo che vado magari a chiudere l'acqua, invece non è vero, vado lì, mi assegno una cosa che mi è venuta in mente. Bello no questo. Però principalmente ho il mio angolo, il mio studio dove mi metto lì e creo le mie cose, poi vengono sviluppate con a volte anche addirittura per esempio Uè Mamma, ti dico una cosa, è nata mentre suonavo in un locale. In realtà c'è una canzone nuova che sarà nel nuovo disco, si chiama Carnevale, e l'inizio era l'inizio di Carnevale dal vivo. Poi a casa proprio lì dal vivo mi è venuta in mente una canzone da scrivere. L'hai modificato? A volte mi vengono mentre suono anche delle idee, delle e come cose, si fa a avere le idee mentre suoni? Devi fermarti, non puoi fermarti mentre suoni. Si chiama schizofrenia. Ecco, allora abbiamo capito. Io volevo mascherare tutto, non è stato possibile. Sì, in tante situazioni, parlando con la gente, parlando tanto, imparo cose su di me e poi anche magari su qualcun altro. Ci ragiono e poi scrivo dei pezzi. Per esempio, l'ultima. Anche una parlando del lavoro con una amica parlavo di questa cosa e è nato chissà se alla fine magari io vorrei solo suonare oppure questa diceva io vorrei fare solo fotografie e però il lavoro non me lo permette, dunque chissà se questo lavoro può essere chissà se a fine mese mi pagano oppure mi comprano, dunque per non fare solo quello che voglio o solo quello per tenermi là. Allora poi da vari discorsi, dalle serate, fine serate, tanti in viaggio, magari la stasera torniamo indietro, vediamo una cosa, parliamo di una discussione e può nascere un'idea che poi diventa una canzone. Poi ci sono quelle che ti aggrediscono e vengono così, come potrebbero essere, per esempio, Così, che è la canzone che dà il titolo all'album. Ma ci hai messo molto a fare scrivere questo disco? Più che altro a registrarlo ci avevo messo il tempo che ci voleva. Molto. A scriverlo e avevo tante canzoni già da parte, ho fatto una selezione e le ho messe via, le ho messe dentro perché ho un centinaio più o meno di canzoni. Però per questo disco ho scelto queste. Sei molto prolifico, insomma. Sì, piace? Ne ho molte, devo dire. Ma hai mai pensato di scrivere delle canzoni anche per altri artisti? Per altri artisti no, però è successa una cosa quest'anno che non mi era mai successo, che c'era Dario che ha fatto un bel giro di basso e non avevamo mai sperimentato questa cosa. E ho detto aspetta un attimo, ho fatto un video col telefono, me lo sono portato a casa, me lo sono sentito, ho pensato a delle cose e ho scritto un testo e poi l'ho modificato, dunque questa è una nuova evoluzione che io non avevo mai sperimentato. Scrivere per altri sarebbe bello, sarebbe da provare anche ti questo. Piacerebbe comunque molto, sì sì, oppure le potrebbe. Senti talmente tue che non le vorresti dare a nessuno? No assolutamente no, anzi più fanno più vanno avanti loro è come se andassi avanti anch'io, certo. Cioè non ho, dove arriva la musica ci sono anch'io, dico, assolutamente. Senti, la musica sai che arriva anche qui a Blu Radio Veneto, specialmente dal vivo arriva cosa ci fate ascoltare adesso? Guarda, una canzone che si chiama Solo Com'è. Prego. Una panchina al sole è quello che ci vuole, quando sto così lo so, con un panozzo ora mi conosco, tutto passa sì, solo con me, solo con me. Fare due passi fino al tabacchi, prendermi un caffè, raggiungere il mare col motorino, per starmene con me, solo con me. Un giorno senza pensare, facendo finta di pensare, solo con me, senza perché, solo con me, senza perché bere. Le stelle, sentir sulla pelle che ce le ho dentro me, con un brivido improvviso, un grido che dice sono qui, che sono con me, sono con me. O buttarmi sul letto a cercarmi un giretto di chitarra che mi faccia stare bene come quando stai con me, sola con me. Senza perché, solo con me, senza perché, baby, stare un giorno senza parlare, facendo finta di pensare. Solo con me, senza perché, solo con me, senza perché bene. I tanti accompagnatori ti mancava Sara, eh sì, su questa canzone, eh sì, duetto non c'è. No, su questa c'era un'altra ragazza, si chiama Elisabetta Marinucci. Sì, era un'altra. Nell'altra c'era invece Sara. Io pensavo fosse Sara. No. L'altra ragazza che salutiamo, tra l'altro, che si chiama, hai detto? Elisabetta Marinucci. Ciao, Elisabetta. Grandissima, sì, corista. Un bacione a te da sta Blu Radio Veneto. Qua l'hai fatto un po' bossanovisto il pezzo, mentre nel disco era un po' reggeggiante, secondo esatto. me. L'hai fatto proprio bossanovista, cioè un po' da bossanova stasera. E l'hai, sì, un po' modificato, visto che non c'era il corretto femminile. Com'è nata? Ecco. Così è com'è nata. Poi il disco è diventato così con, ecco, fiati, è nata come bossanova praticamente. Sì, è nata così, in questo, come l'hai sentita adesso. e poi nel disco un po' diversa. Come mai nel disco è entrata reggae o no? Perché c'era la possibilità di farla in un'altra maniera. In studio sono andato a vedere che, le prove che c'erano Dario. Che e... Dario l'ha voluta lei, lui porta la reggae, Dario, sei no, stato non te. È colpa mia. Non è colpa tua. No? Forse di Saverio Malaspina, che, sì, che è il batterista dei Meganoidi, che ha suonato. Meganoidi è un gruppo storico, sì, ligure, è molto duro, duro nel senso tosto. E lui è bravissimo e suonando, facendo le prove sulle guide del, del pezzo, quasi all'inizio, è uscito questo inizio naturale, molto è naturale. Mi è piaciuto, l'abbiamo tenuto, ha detto ma sì, dai, poi ce la rifacciamo come vogliamo. Come volete. Ma è bello, vedete, il discorso di Dvestito è bello per questo, che questa è la versione del disco, era così. L'originariamente era una versione diversa, cioè c'è un cambiamento continuo, è un sperimentare continuo, e quello è un live continuo, anche quello. Sì, ma non solo nel senso, nel punto di vista creativo, anche nel punto di vista di vivere la musica. Ad esempio, suonando, come dicevamo prima, in tanti posti, una sera abbiamo conosciuto un altro cantautore che cioè, lo conoscevo già, poi loro l'abbiamo presentato, e che si chiama Davide Geddo, che anche lui è un bravissimo cantautore di Sto aspettando anche lui, che sta, ha fatto due dischi, uno si chiama Fuori al Comune e l'altro si chiama Io Non Sono Mai Stato Qui, che è uscito da poco. Vabbè, una sera ci siamo visti in un locale, abbiamo suonato, e poi io sono sceso un attimo dal palco, sono andato a prendere qualcosa da bere, e ho detto fatti due pezzi con, se fa piacere, no? Visto che ci aveva invitato per la serata. Poi da lì è nato questo, questo amore, e anche, hanno suonato con, anche con lui, dunque oltre a condividere serate e cose, condividiamo proprio il, le nostre le situazioni, tipo i gruppi, musicisti. I musicisti, dunque, e non è una cosa anche questa normale, c'è anche un po' del bambinismo in giro, se tu suoni con me non suoni con lui, queste cose tristi. Però, una maturità anche in questo senso da, da uomini che la vogliono mettere anche in musica. Questo, no? Questo si usa specialmente nel jazz, questo condividere jazz senza nessun problema. Una grande stella può benissimo andare a suonare con un gruppo sconosciuto. Nel jazz succede spesso, anche nel jazz italiano. Però, siccome non sappiamo suonare jazz, ho detto almeno facciamo Nei gruppi rock no, perché nei gruppi rock non succede spesso in Italia questo facendo, mentre all'estero è una cosa abituale, normale. Sì, Perché secondo te Zaza e Company no in Italia? C'è questo, questo coltivare il proprio orto, perché, settorialismo. E perché coltivare il proprio orto? Mentre la musica deve essere di tutti. Deve essere paura di perdere quel minimo che hai. Beh. Invece di capire che quel minimo che hai, se lo espandi in un'altra maniera, potrebbe aumentare, aumentare. Arricchirti, certo. Arricchirti, esatto. E allora no, ci piace il rischio. Va bene. Però è bello stare insieme con tutti gli amici, giusto? Assolutamente, anche perché poi ne crescono altre situazioni. Noi ne abbiamo uno in comune che parlavamo prima, abbiamo Antonio Clemente. Antonio, giusto? Lo salutiamo, cosa dici? Lo saluto, sì. E guarda, siamo venuti in su, Antonio, Anto, che col tuo CD, ascoltavamo il tuo CD e siamo venuti su. E abbiamo sentito Agosto 5-6 volte, un pezzo bellissimo. Mi sono anche addormentato. Io. Hai sentito Antonio? Antonio? Grande, grande. Salutiamo anche Talita che sarà lì con noi. Zazza! No! Che figata! Buonasera! Grande, ciao compa! Ciao, ciao, la mia presenza incombe sempre su di voi, grande. Non potete allontanarvi da me neanche se andate a Padova. Grandioso, ma che bella radio Blue Vendio che ci fa risparmiare sul telefono. Come stai? Bene, bene, mi fa piacere, ho ascoltato tutta l'intervista, devo dire a Zaza non l'avevo mai sentito dalla radio, l'ho sempre sentito dal vivo. Ma mai dalla radio, devo dire che ha veramente una bella voce. Sembra più magro, in radio. Sembra più magro. Bene. Come stai, Antonio? Sto bene, sto bene. Sono qua nella mia Sicilia. Come avevate detto voi, cioè, la Genova è una città piena di cantautori, ma ci sono troppi cantautori e pochi musicisti, quindi io per ridurre il numero di cantautori ho deciso di lasciare Genova per tornare in Sicilia, dove invece c'è carenza di cantautori perché c'è il problema inverso. Però, e adesso qua io ho l'imbarazzo della scelta, non, c'è la fila di musicisti fuori dalla porta che vogliono suonare con me, io non so chi scegliere. Hai dato il permesso a Manuel questa sera di venire? Ma io sono veramente ben felice che Manuel abbia preso a suonare con Zazza, perché per me Zazza è più che un collega cantautore, un amico, è quasi un fratello, così come lo è diventato Manuel nel corso di questi ultimi anni, quindi è veramente e sono veramente felice per loro che si sono trovati, e spero che possano stare bene insieme sia artisticamente che umanamente. Che sono delle persone splendide, oltre che degli ottimi artisti. Quindi. Dico, mi hai lasciato in buone mani, Anto. Eh sì, direi che poi. Hai avuto l'accortezza di trovarmi un'altra sistemazione, anche se era un disoccupato siciliano, ormai, dovresti fare il ministro del welfare. No, io fra l'altro, pur essendo siciliano, non sono così geloso come mi dipingono, quindi. Senti, due parole le voglio spendere io, cioè, per chi non l'avesse ancora capito, Antonio Clemente è già un amico di questa emittente perché è passato qualche tempo fa, ha presentato il suo disco e io lo posso già dire, Antonio, me lo consenti, vero, dell'uscita del tuo nuovo disco? Certo, certo, anzi, io ho ricevuto, bisogna dirlo, ecco, che è già pubblicato, non ancora, vero? È già pubblicato, disponibile su internet, su Bandcamp, acquistabile, ascoltabile in streaming e vari canali web. L'hai già stampato? Non è ancora uscito fisicamente, okay. Ma conto di farlo uscire quanto prima, okay. Ecco, anche in copia fisica. Sai che, bellissimo. Sai che poi ti aspettiamo qui di nuovo, eh? Conto di venirvi a trovare quanto prima, appena sarà possibile. Io ho ricevuto le tue tracce che mi hai fatto sentire, è un disco, ve lo posso già anticipare, bellissimo, sai che te l'ho già detto anche in privato, giusto Antonio? Mi fa molto piacere che abbiate apprezzato, perché io ci tengo al vostro parere, vale doppio per me. È molto bello, veramente, complimenti. Grazie. Antonio, ci sentiamo quando ritorno. Salutami Talita, dai un bacione grande. È qui con me che ti saluta, Zaza. E mandatemi un po' di olio di quello lì che abbiamo bevuto quella sera. Volentieri, volentieri. Anzi, vi aspetto qui in Sicilia, ragazzi. Organizza che... rivolto anche a Simone, Dario. Senti, vi aspetto qui in Sicilia perché sto organizzando degli eventi qua e voglio che ci siate, quindi tenetevi pronti. Senti, Anto, prima di chiudere, magari ti ricordo per di Sogni Autori, visto che siamo qua, se ne vuoi parlare. Ah sì, Zazza sarà fra i cantautori che parteciperanno a questa rassegna di musica d'autore che si terrà a Genova al Teatro Govi di Bolzaneto, che si chiama I Sogni Autori ed è una mia idea, ed è già la sua seconda edizione, che si terrà al Govi di Genova il 15, 16 e 17 febbraio, quindi insomma spero che riesca bene. Paradossalmente io non sarò presente perché sono tornato in Sicilia 2 mesi fa, quando già l'evento era stato organizzato. Comunque spero che vada bene, che abbia il successo che merita la rassegna e i cantautori che parteciperanno. Certo, va bene Antonio, grazie della disponibilità, ovviamente, insomma. Grazie a voi per avermi invitato e saluti ancora a tutti. Un abbraccio Antonio. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Antonio, ciao. Allora, che ti è piaciuta? Grazie, bellissimo. Oh, caramba, che sorpresa. Che bella, sì, la carambata. C'è Antonio anche... per voi. C'è anche Matteo Conta che vi abbraccia tutti, insomma. Grande. Magari poi lo sentiamo, comunque poi lo sentiremo tra 15 giorni, quindi grande, Matte. Magari facciamo una telefonatina più tardi, vediamo se riusciamo a beccarlo. Allora, io direi di far ascoltare ancora qualcosina. Zaza, vuoi far ascoltare qualcosa dal disco o dal vivo? Sì, c'è l'ultima. L'ultima che... spiega che non è l'ultima, sì. E poi ce ne andiamo, ecco. Poi ce ne andiamo, okay, ci risparmiamo questi chilometri. E sì, è quella che chiude il disco, dicevamo prima, e parla di questo questi argomenti di questo pezzo sono il sogno, il lavoro e i punti di vista, insomma, ed è questa, insomma. Spero ti basti davvero la domenica libera il cielo, da seguire da dentro quel treno che va via e non sai più se a fine mese se ti pagano o se ti comprano. Ok. Chissà perché ridi quando chiedi ma come vivi così, così, aggrappato ad un sogno, come si sta? Come tra le tue braccia, come quando ne avevi uno anche tu. Ricordi, ridevi più spesso, ma ora guadagni di più. Spero ti basti davvero la domenica libera e il cielo da seguire da dentro. affacciato alla finestra, guardando verso il mare, specchio tu. Spero ti basti davvero, la domenica libera il cielo da seguire. Ti pagano o ti comprano, ho bisogno di te, c'era scritto. Allora mi sono chiesto come mai ho solo lei tra le mie dita e non te. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, due chiavi di volta per questo pezzo. È la prima volta che lo sento, l'ho sentito adesso in questo momento live. Come è live, come si conviene. E tu dicevi, è una pop song, una canzone pop, assolutamente. Però c'è questo risvolto, questa tastiera anni 60, anni disco dance. È disco dance, molto Shaft, ricordate Shaft? Sì. Oppure tu giustamente hai citato Stevie Wonder. Per questa tastiera un po' black, un po' solo, sì, un po' a me. Come mai? Come mai Zaza? Mai Zaza e anche gli altri? Perché anch'io andavo a ballare, anch'io a volte ci vado, a volte mi piace, anche quello è un altro Zaza tra i miei alter ego. C'è anche quello che si diverte ogni tanto in giro. Mi piace non chiudermi da una parte, certo. E farne cose più diverse, ecco. Corro il rischio di non fare niente bene, ma lo voglio correre per il gusto di divertirmi. Quindi l'inserimento delle tastiere così è questo il motivo. Sì, poi lo richiedeva il pezzo in quel modo lì. Mi piaceva. È un pezzo da ballare, da muovere. Era nata diversa, era nata molto Gypsy King, una cosa un po' messicana. Poi in studio tutto si trasforma. Ti metti lì, come dire, vai in cucina, prendi, cosa c'ho? Faccio questo. Invece apri il frigo, c'è altra roba e fai alla fine un'altra cosa. E ora dimentichi quello che devi fare e prima. E non ti ricordi neanche cosa volevi fare. Questa metafora con la cucina. E qui, caro Zaza, cade il tuo gusto napoletano. Sì. Assolutamente. Ma sai perché? In realtà volevo arrivare a un punto. Dimmi. Ho visto che Radio Blu Veneto non ha pubblicità, quindi per quello volevi fare la taglia pubblicità. Plim plum. Venite a comprare lo spazio del formaggio. Lo di assumiamo, via Napoli. Cosa dici? A questi lo assumiamo. Sì. Per gli spot pubblicitari. Abbiamo bisogno. No, ma è interessante, cioè, il discorso che tu hai fatto, quello di fare un pezzo e poi cambiarlo, perché in studio si cambia. Perché spesso e volentieri, però, il pezzo deve avere un suo scheletro. Sì, ce l'ha ancora lo scheletro in questo momento, con questo pezzo qua l'aveva ancora lo scheletro? Sì assolutamente, credo proprio di sì, anzi più lo ascolto più mi piace. Insomma, io questo disco continuo ad ascoltarlo, sarà che è il mio, forse tutti i cantautori, tutti gli artisti quando sentono il proprio non si stancano mai, ma io questo è capace che se andiamo giù lo mettiamo, me lo ascolto, no, ho capito, no. Cioè sono proprio felice del risultato, questo grazie a Rossano che ci ha dato una mano, Rossano Villa, tutti gli altri musicisti che hanno partecipato. Ma esiste la difficoltà quando uno suona spesso le canzoni che hai fatto nel disco, si stanca di suonare sempre qualcuno, qualche cantautore dice io non voglio più suonarla quella là, anche se il pubblico la vuole, non voglio più. Vedi Alice di De Gregori che con difficoltà la suonava, il pubblico la voleva, lui non voleva suonarla. Esiste per Zaza anche questo? Esiste un pezzo che spesso chiamato dai fan, che lui è un po' stanco di fare, la band è un po' stanca di fare? Stanco di fare, credo che ci stiamo arrivando a quel momento lì. Ah, ho capito. Credo che ci stiamo per fermare in tempo, perché come ti dicevo prima abbiamo suonato tanto, poi abbiamo registrato e ora stiamo di nuovo suonando tanto. E quello dunque, è la bellezza. Credo che ora ci stiamo fermando, stiamo arrivando al punto di dire ok, questo l'abbiamo fatto. Saturazione. E arriviamo a produrre cose nuove e una svolta praticamente. Capo. Sì, ripassiamo dal via, e anche perché ci sta, non puoi mica farle per sempre. Poi magari di questo disco, nel prossimi live, dopo aver prodotto il secondo disco, porteremo qualcosa. Okay. E la riapprezzerai poi, la riapprezzi. Sì, esatto, la riapprezzi dopo un po' di tempo. La riscopri. E anche la puoi modificare totalmente, anche quello, cioè anche quello da dire. Certo. Bene, allora io direi di fare ancora qualcosa dal vivo. Siccome mi hai proposto tantissime canzoni, sì, qua, allora magari parliamo un po' meno e suoni un po' di più. Io o preferisci? Sono un musicomane. Tu sei vabbè, insomma. Cioè, questo pezzo si chiama Camminare di notte. E, guarda, succederà una cosa assurda anche stanotte. Sì. Torniamo a casa e io incontro questa persona. È una persona che incontriamo ovunque. E ho detto, ma come mai questo qua lo incontriamo sempre? Ma davvero non è una cosa che. E alla fine, una sera, l'abbiamo fermato mentre stavamo scaricando gli strumenti, ho detto, senti, non ce la faccio, io lo fermo, gli dico, se questo qua ce lo manda qualcuno, oppure se lo vedo solo io, magari, perché potrebbe essere, sai, tipo Beautiful Mind. Sì, sì. Per esempio, ma io sono in uno studio in questo momento, sì, sono a casa, no, sulla sedia che dondo davanti. No, io ti vedo. Okay. bene. Toccalo, magari, così lo senti. La conga, ok. Qui. E niente, questo. Io ho detto, sai, ho scritto una canzone per te. Siccome lo vedevo sempre in giro di notte, camminava. E lui si è innamorato. E lui si è innamorato. Di te. In realtà si chiama Guido. E io mi sono divertito a pensare che fosse uno scrittore che andava in giro a cercarsi le parole. E dunque, pensando a lui, ho pensato anche alla moglie che magari rimaneva a casa nella felicità del marito che dice: senti, io esco, vado a cercare le parole. Mi immaginavo, chissà lei che felicità potesse provare nel rimanere a casa da sola. E lui poi, dopo essersi fatto il suo giro, magari torna a casa e dice chissà se c'è ancora, se mi ha sopportato questa mia evasione ancora questa volta. E insomma è rimasto felice, io l'ho fatta sentire e comunque questa canzone mi ha portato un amico in più, davvero, come cantava il Cocciante. E insomma la musica non finisce con la canzone, in questo senso, porta altro. E allora l'ascoltiamo. Sì. Neanche più un sorriso, né un caldo letto, riescono a tenerti più sotto un tetto, perché e camminar di notte a cuore aperto, senza avere fretta, senza avere freddo, così. Così. Ma tu non ti chiedere dove tu. Non ti chiedere come, dormi ancora se vuoi, ma dimmi che è vero, dimmi se è vero, che ritorno io trovo ancora te sdraiata lì come un Dalì. Mani in tasca e al collo, un foulard di vento. Piangere all'andata, ridere al rientro da te. Da te. Trovate le parole poi tornare a casa e capir che le più belle poi sei tu in pigiama per me. Per me. Dimmi che dimmi se è vero che al ritorno io trovo ancora te tra gli altari come andare. Pardon, è il colpo di tosse, ci vuole, non ci voleva, ma ci vuole. Ci stavo facendo, fa molto jazz. Fa molto, appunto, volevo arrivare a questo. Una canzone molto swing, decisamente swing, odora di swing. Perché? Perché. Anche Emanuele ha fatto una bellissima cosa. Questa è difficile, sì. Come domanda. Hai fatto una cosa molto bella, molto difficile, ma molto creativa, secondo me. Perché siccome faceva parte di quel quadro in quel momento. Ci sta in quel momento, me la sono dipinta così. Comunque io ascolto anche del jazz, lo ascolto solo, mi permetto di ascoltarlo, almeno quello. Qua non è che tu l'abbia fatto, però no, ti no, sei avvicinato. Mi piace quel mondo, cioè magari ascolto più quello che cantautori, cioè, a meno che non sia. C'è da dire che tutte le volte che suoniamo questo brano, tutte le volte io vi guardo, voi non so se lo sapete, ma abbiamo tutti gli occhi chiusi. Esatto, soprattutto Dario, visto che aveva gli occhi, proprio eri in contemplazione della nota di Manuel. Fa così, tutti gli occhi chiusi e si suona. Comunque, proprio per questo, siccome l'ho notato anch'io che andavo da una parte che non è la mia, mi sono affidato ai padroni di casa di questo genere. Che infatti in questo pezzo del disco c'è Riccardo Barbera, che è un jazzista, un contrabbassista di grande importanza. Sì, esatto, e nonché Francesco Villani di nuovo al pianoforte. Pianoforte. E quindi si sono adattati. Ho cercato di far fare a chi sa fare quello che volevo fare io. Ho capito. Ed è molto più bello. Mi piace, ovviamente, fatto da loro. Però per esigenza personale, per andare in giro, siccome lo devo fare e mi piace farlo, lo faccio a modo mio, ecco. Però serve a qualcuno per continuare a fare quello che sa fare bene, tipo il jazz. Chiaro. Sto notando che hai molti fans che ti stanno ascoltando, che ti stanno seguendo. Sì. Ah, questa è una cosa bellissima. Intanto ti porto i saluti di Aurora Esposito. Ah, sì. Aurora, che è nonché mia sorellona. Ciao Aurora. Poi ancora, vabbè, Geddo ti saluta. Davide. Oh, Davidino. Poi, vabbè, Annalisa, che è una cantante qui trevigiana. Sì. E poi ancora, ho perso dov'è quella che doveva... Maria Emanuela. Maria Emanuela, sì. Ecco, esatto, mi sfuggiva il nome. Perfetto. E poi ce n'era un altro. Beh, dopo te lo trovo e te lo dico, perché... c'è anche la Rosy, dice con lei. Ah, c'è anche la Rosy, bene, ok. E quindi un ciao a tutte queste persone che stanno ascoltando. Rosaria. Bene. Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Agostino Spolaore e Maurizio Calzavara, ma soprattutto Tazza e la sua band, che ricordiamo sono Dario Laforgia al basso, Simone Besutti alle percussioni, ecco, e Manuel Peras alla chitarra. Bene. Manuel lo vedo molto emozionato, sono felice. È più emozionato che stasera che non quella volta con Antonio. Sì, è un po' meno emozionato. Sì, stasera è molto emozionato, però sì, è molto creativo, come abbiamo detto prima. Soprattutto rifammi quel giro che hai fatto con loro un secondo. Riprendiamo da quel momento là. In realtà era un improvviso. Parla vicino al microfono, Manuel. Era buttata lì al momento. È quello che serve. Facciamo il giro, dai. Oltre a essere, è stato il campione d'Italia del 2003 di go-kart. Hai capito? In realtà lui l'abbiamo preso come autista. Infatti, non ne posso più di guidare. Infatti oggi quando è entrato in macchina noi ci aspettavamo che arrivasse con la tutina e il casco vestito da... E che ci mettessimo la metà del tempo. E invece no. Ho dovuto rispettare i limiti di velocità, a malincuore. Anche perché Dario, che guida ormai da più di 10 anni, non ne posso più di guidare. È una certa età, Dario. È stato bellissimo sedersi dietro, rilassati, dormire un po'. È stato meraviglioso. Sì, c'è anche una foto su Facebook di te che dormi. No, ma quello non la togli da subito. Grazie. Hanno scoperto che io suonassi la chitarra strada facendo. Dopo. In realtà. Non era quello il mio fine. Infatti in macchina mi ha detto: ma hai portato la chitarra? Perché? Scusa? Comunque rimpiangiamo un po' il GPL. I costi vanno su. Ok. Benissimo. Allora, io volevo chiedere, già che sono qui, la solita domanda che facciamo noi, insomma, sono passata un'ora, quindi abbiamo scaldato l'ambiente, giusto che la facciamo. Zaza, comincio proprio da te. A casa cosa ascolti quando sei da solo? A parte il tuo disco? Sì, ascolto... Oppure, te la giro in un'altra maniera, come la giriamo sempre noi. Se vai in un'isola deserta, cosa ti porti? 3 dischi. Aia. Aia. 3 solo? Mi porto la chiavetta e ci metto tutto dentro. No. No, non è la risposta. Non c'è il PC. Non vale. No. Mi porterei questo per ricordarmi quello che abbiamo fatto e ci tengo tanto. Solo 3 dischi, no, no, non ti so rispondere. Però scusa, conoscendo di qualcosa dei Queen porteresti per forza, è vero, io... Ma tu non suggerire, però scusa. Noi siamo cresciuti coi Queen, ci massacravamo di Queen. Chi è che non è cresciuto con i Queen? Sì, un disco dei Queen, è Night of the Opera dei Queen, me lo porto, sì. E poi aiutatemi, no, scegliete voi per me, perché io, è una risposta, qualcosa di Beatles, un disco dei Beatles. Sì. quale potremmo portare di Beatles? Beh, direi Abbey Road, però White Album. È sempre preferito da tutti i White Album, Maurizio? Sì, io posso dire una cosa, Agostino, che tutti i dischi dei Beatles sono preferiti, secondo me. Certo. Beatles, al di là del ritorno, adesso sono stati stampati in edicola, sì. altri. Yoko Ono ringrazia, a proposito, ha compiuto 80 anni, o ieri o domani compirà 80 anni, Yoko Ono. 80 anni, sì. Mamma mia. Yoko Ono, 80 anni, quindi tanti anni sulla breccia assieme. Sì, ci sono quei fan pro Yoko contro Yoko. Al di là di questo, doveva essere quel personaggio, doveva, serviva a John Lennon, al di là di questo. Era è stata fondamentale. Purtroppo è stata fondamentale anche per la rottura della band assieme a Linda. Infatti Eastman. Potresti dire quale dei tre dischi dei Beatles che porteresti su un'isola. Allora pensa dunque quanto è grande il mondo. Ultimamente sto sentendo solo roba di amici. Cioè facendo zero cover. Eccolo. È grande. Facendo zero cover ascolto solo amici ultimamente. Ho la macchina di c'è Geddo, c'è Mauro. Ma c'è non Antonio. Amici della De Filippi. No. Amici musicisti. Amici tuoi. Amici cantautori. Matteo, ho scoperto da poco un certo Matteo Fiorino che è simpaticissimo. È venuto da Spezia a cantare a Genova per la rassegna. Quello di un sacco di amici. Ora un altro amico, Francesco Villani, ha fatto un disco meraviglioso per cambiare totalmente il genere jazz, il pianoforte, il trio meraviglioso, ascolto di tutto. E poi infatti vedi esce un CD così che è un po' un misto. Ah certo, sì, questo è vero, misto beh, non è un misto, perché un misto di tutti i tuoi colori, questo sì, è il discorso. Però mi piace molto la musica brasiliana, mi piace. Beh, si sente la bossa nova, la napoletana, si insinua. La napoletana devo ancora sentirla, ma può darsi che entro le 23 sentiamo qualcosa. E invece poi tu, già che mi stai guardando. Tocca a te, il nostro batterista, il nostro percussionista, scusa. La domanda. Sì. Tre dischi. Io se potessi mi porterei direttamente Zazza, ecco. Per un sacco di motivi, perché a me non me le suona, me le canta. Te le suona? No, non lo so, è una domanda difficile. Io ascolto tantissima musica di generi diversi, ma proprio diversi, quindi... Ma qualcosa che ti piace in modo particolare? A me piace molto Ivan Segreto. Segreto mi piace molto, l'ho ascoltato per un sacco di tempo. Non chiedetemi i nomi degli album, perché io ho la memoria di un pesce rosso. È un po' tempo che non fa qualcosa di Ivan Segreto. Sì, ultimamente però abbiamo visto, cosa c'era, quel live che c'era bellissimo su YouTube, fatta a Milano, vabbè, comunque sì, penso ci Blue Note, forse. Esatto, c'è un bellissimo live su YouTube da vedere, molto molto valido. È bravo Ivan Segreto, personaggio sì, incredibile, molto bravo. Poi, sì. E poi chi è? Poi io, Fiorella Mannoia. Io sì. Come mai hai scelto Fiorella Mannoia? Perché ti piace la voce? Perché ti piace come interpreta? Perché? Perché mi piace come dice quello che dice. Ah, grande. Capito. Proprio il modo. Quando dici, c'è proprio certe parole che lei riesce a dire così soltanto lei. Lei sicuramente, siamo a due. E poi un altro, dai. Purtroppo non conosce i nomi degli album, signori. Non continuate. Lui non conosce i nomi delle canzoni di questo disco, anche. Sì, sì, io ho questo problema qua. Lo so, è il prezzo da pagare. Dovevamo passare con me. È questo. Deve pagarla, perché sono anni e anni e non si ricorda le canzoni. Non si ricorda le canzoni. Beh, sarà spartito davanti. Ti dici, facciamo quello pum pum pam pum. Facciamo quella lì. Beh, se mi chiamo Scoppietto, un motivo ci sarà, no? Sì. Se è una questione di... Devi ancora scegliere il terzo. La terza entità, il terzo artista, dai. Beh, il terzo artista, secondo me, potrebbe essere anche Fossati. Come mai Fossati, voi che siete genovesi? Fossati che De André lo lasciamo stare, ma Fossati che importanza ha avuto a Genova per lo sviluppo delle band alternative di Genova? Ha avuto che c'è stato un giardiniere che sicuramente si è arricchito. Ah, ho capito. No, perché allora io appena uscito il disco sono andato a Levi, che è sopra Chiavari, dove sta lui, che si è andato a imboscare lassù. Sì, adesso sei. E io l'ho scovato comunque in mezzo, passando per i campi, passando per gli ulive, l'ho trovato. E ogni tanto vado e gli tiro un CD nel giardino, ho detto magari qualcosa. Lo pesca. Sai, uno ti dà la mano, ti ascolta, comunque ti dice... continua a fare Salomiere, oppure guarda quella lì è carina, basta. E a me piace, come fa a non piacere? Sono quelle domande, come dire, cosa ne pensi di Leopardi? La produzione è molto, molto grande, molto vasta, quella di Fossati. Assolutamente. Lui dai, Delirio, un musicista. È un musicista, sì, un musicista proprio. Musicista. Ha suonato e ha scritto per tantissima gente, ma noi ha compreso. Ovvio, sì. Pensa che addirittura c'è lui testimone. Sì, io infatti volevo raccontare questa cosa qua. Vai, di là, famosa frase. Vai. Eravamo, non so, al concerto forse di Fiorella. Sì, esatto, di Fiorella. Eravamo seduti e avevamo seduto a fianco, proprio lì, un po' su vicino, no? Sì, c'era Fossati. Lui, Zazza, si gira, dice: sono Zazza. Lui lo guarda e dice: Zazza, ma ho più CD tuoi in giardino che rose. Te lo giuro. Io ovviamente sono sprofondato nel sedile, no, nella poltroncina. È una scena stupenda, secondo me, certo. Indimenticabile. Nessuno scampa a casa, nessuno. Però poi ci ha portato dentro. Poi ci ha portato dentro, esatto. Conoscere Fernando Mannoia, è stato gentile. Bellissima, è stata bellissima. Ma guarda, di artisti, di aneddoti così ne abbiamo molti, perché in questo modo ci ho provato molto. Ora devo trovarne un altro, però. Devi attaccarci dei sanpietrini ai CD, e così almeno fanno più... Se no ti arrestano prima o poi per stalking. Ti porto i saluti di Mauro Cipri. Eccolo. Oh. Biretta? Dice viva, viva Zero Cover. Non può ascoltare, però vi saluta caramente. Grandissimo, Mauro. Manuel, tu. Tocca a te, Manuel, poi Dario. Vai. Ma sicuramente qualcosa di Battiato, tipo fisionomica, mi viene in mente. Un disco un po' particolare. Particolarissimo. Tra i miei preferiti, di sempre. Poi mi piace molto Signora Bovary di Guccini. Ah. E poi, non lo so. Non quello di De Gregori con la pecora in copertina. Ah. Rimmel. Uno dei suoi primi. Buffalo Bill, no. No. Rimmel. No, si chiama solo De Gregori. Esatto. Ah, giusto. Ah, con la pecora, scusa, sì, avevo capito. Disco molto, molto interessante. Molto difficile anche per certi versi. Sì, dove c'è, non c'è niente da capire, esatto, dentro. Uno famoso, di più ermetici. Uno di più ermetici. Dimmi. Ma Giovanna era il migliore. Esatto, è vero. Tocca a te, Dario. Io sono un po' esterofilo. Bene. Ti porterei il primo album dei Counting Crows, che si chiama August and Everything After. Devo alzarmi in piedi, allora. Per forza, devi anche applaudire. Esattamente. Poi tipo farei una discografia dei Pink Floyd. Pink Floyd, sì. Qualsiasi cosa di Pink Floyd che abbiano fatto nella loro vita. Mi aggiungi la Dave Matthews Band, tu che c'è. Sì, Dave Matthews Band. L'hai vista? L'abbiamo vista dal vivo con Simone. Sì, come è stato? No, strepitosa. Strepitosa, proprio da... Ti cadevano le braccia, perché il basso. Quella è proprio una band live a tutti gli effetti. Atomica. Esattamente, c'è niente da fare. Infatti poi abbiamo rotto strumenti al ritorno, detto, basta, lasciamo stare. Facciamo i pizzaioli, facciamo, non so, fai tu. Grande. Ecco. Ha un'attenzione incredibile, sì. Tu dici una cosa e lui mette giù. Lui per niente è il regista a queste funzioni, oltre a condurre la trasmissione con me, io piccolino e lui grande, perché allora, fisicamente sta bene. È incredibile. Viva internet, allora. Se ci togli il net forse è meglio, vero Maurizio? Viva internet. No, lasciamo perdere, che lui è sandoriano. Non solo lui, sei tutti sandoriani. Sì, sì. Beh, e poi ci manca. Non so. Se manca ancora. Sì, manca uno perché Manu non si pronuncia. No, se sei andoriano anche te. Io no, sono genuano. Ah, se andare a Napoli non si tifa. Possiamo dire che è l'ultima sua apparizione, è questa con noi. Arrivederci da Radio Blu. Io sono Blue, un tifoso molto tiepido. E meno male, se no soffrirei tantissimo. Ma non ci interessa, basta. Forza Genoa. Dario, te ne manca Dario, ancora una, Dario. Ancora uno? No, deve Matthew Band, sì. Deve Matthew, sì. Ah, l'accendi? Sì. A me interessa che hai citato i Counting Crows. Sono molto contento. Io li adoro. Secondo me sono proprio una... Peccato che in Italia non vengono mai e non sono apprezzati. Non vengono mai, esatto. E sono poco conosciuti. Però secondo me sono veramente poliedrici. Sì, Adam Duritz ha una voce incredibile. Lui è molto, molto bravo. Molto bravo. Uno dei musicisti. Mi emozionano veramente, sempre, da anni. Quindi anche bravo come autore. Parecchio, molto bravo. Sì. Peccato che non vengano in Italia. Lo questa so. È una cosa proprio che non ce l'ho mai fatta. E andremo un po' in America, dai, su. Dai, facciamoci sto viaggio. Basta in Germania, sono venuti spesso volentieri in Germania. Sì? Tanto guida, ormai guida lui. Guida sai. Lui, non c'è problema. Sul furgoncino, Europa e poi il mondo. Va bene, c'è pioggia al sole adesso. O vuoi riposarti e fare qualcosa dal disco? Io farei così. Così? Ah, così, sì. Dal disco o dal vivo? La facciamo dal vivo? La facciamo dal vivo, bene, dai. Tu che hai una fiaba dentro gli occhi, da seguire con un dito sulle guance, ora chiudili, con un bacio ti racconterò il finale. Ora non pensare, sei con me, non ti devi preoccupare. Fai colare la tua gioia su di me e accompagnala con la tua voce, che così bene non ha cantato mai. E baciarti in pieno viso mentre ridi è per me come andare in bicicletta, in bicicletta sopra l'arcobaleno. È bello riaverti accanto e sentirti altrettanto vicino. Mi piace sentire il tuo cuore che ride per me. E posati pure su di me. Respira più piano e dammi la mano. Stasera ti porterò dove come eri prima di smettere di credere in questo amore. Ecco, ci siamo. Guarda come ridi mentre dico ti amo. Sogno, no, non stai sognando. Stiamo solo ricordando insieme chi siamo e come eravamo quando lo chiamavamo. Io stia scherzando perché suono e canto di te, ma è il mio modo di farti capire che io sto bene davvero con te. Parlami e rimani come se stasera non avesse un domani. Ti voglio bene semplicemente. Tu rendi paradiso questa stanza di niente, ed io ne sono il re. Sempre dolcissimo tu, eh? Ci metti sempre quest'anima così intensa, così emozionale. Bellissima, una canzone molto bella, una ballata molto bella. Grazie. È dedicata a qualche persona particolare? Sì. Grazie, sì. Bella, sì. Ti ringrazio. A tutti quelli che l'apprezzano come te. Ah, ecco, grazie, grazie. C'è un tuo amico che ti vuole salutare. Ah, non potevamo farne meno. Grande. Grande. Mi devo dei soldi? Pronto. Pronto? Pronto? Buonasera, caro Zazza. Buonasera, signore e signori. Ciao, Matte. Ma mi hai riconosciuto? Mi riconosce ovunque. È bellissimo stare in attesa con la tua canzone e sentire al telefono. Sembrava quasi che la cantassi per me. Infatti era così, Matte. Com'è? Infatti era così, Matte, la faceva per te. Lo so, lo so. Volevo dirlo pubblicamente. A questo punto facciamoci vedere, dai, per quello che stiamo. Matteo Conta, che ha fatto il CD. Tutto. Ciao a tutti, ragazzi. Conta. Saluto intanto Blu Radio Veneto. Grazie. Che mi ha ospitato telefonicamente. Zazza, Dario e... e Simo, che hanno suonato anche loro, hanno suonato, per continuare il discorso di prima che facevate, che abbiamo condiviso i musicisti un po' con tutti, anche loro hanno suonato nel mio CD, quindi insomma è un po' come sentire anche per me un po' di famiglia lì da, siamo tutti una in radio famiglia, in diretta. Siamo una grande famiglia. Sì, ma questo è un fatto che l'ho notato veramente, siete tantissimi lì a Genova, noi come radio, io personalmente ho pescato molti artisti là, ho trovato molti artisti, sono uno più bravo dell'altro, insomma. Ricordo Karen Ciaccia, ricordo Andrea Celeste, la Chiara Nagnini, Alberto Lupi Musso, ce ne sono veramente un'infinità di gente che è venuta qui, che è venuta e che ci ha onorato della sua musica. Senti, cos'è l'aria di mare che vi dà questa bravura? Non lo so cos'è, forse sì, tutti i cantautori abbastanza classici, cantautori sono nati poi da qua, no? Cioè, di Andrea, di Paoli e Bossati, insomma, un sacco di gente. Poi Bruno, però per fare, per farsi conoscere devono andare via di qua, il problema è quello. Beh, insomma, infatti Zazza è lì. Beh, verrai anche tu, no? Giusto? Va bene, certo, sì, sì, volentieri. No, Matteo volentieri. Una volta ha detto una cosa giustissima, che il paradosso del bisogna suonare per farsi conoscere, invece per assurdo bisogna farsi conoscere per suonare. Esatto, esatto. È una cosa, ti ricordi quando facevamo questo discorso? Sì, sì, sì. Sì, perché purtroppo la gente qua, come dicevi tu, a Genova c'è molta gente che suona, che canta, molti artisti bravi da sentire, da ascoltare, c'è poco pubblico perché purtroppo ci sono pochi spazi in settimana, la gente non sempre ha voglia di uscire, è stanca e tutto, quindi in altre città magari ci sono più spazi dedicati, ecco, comunque è bello anche che chi viene a sentire viene apposta e quindi ascolta, è bello suonare anche per le persone che ascoltano, ecco. Beh, insomma, quello c'è un bel riscontro a Genova, sì. Bello, bello lo sapere. Beh, insomma, qui a Padova invece c'è un po' più difficoltà rispetto a lì. Secondo me nascono meno artisti di Genova qui a Padova, quantomeno come cantautori. Non so poi il motivo quale sia. Ma c'è il mare. Che ogni città forse, forse il mare. Non c'è il mare, non c'è il mare. Padova non c'è il mare, purtroppo. Ci sono troppe distrazioni qua a Padova. Sì. Città, l'università distrae molto. Noi ci mettiamo sul mare, sugli scogli d'estate con la chitarra e qualcosa ci viene in mente. Certo, l'immagine ispira molto di più l'immagine che non vedere tanto cemento come c'è anche, qui. Anche, caro... Però ti dico una cosa, anche se il gruppo, uno dei gruppi più famosi padovani erano i Delfini, chiaramente. Sì, quindi sì. Anche me li conosci, esatto. Oltre tutti i Delfini. E il Delfini è un gruppo storico del beat italiano. Il bacchiglione beat. Esatto, i Delfini sono nati a Padova, parlando di mare. Io c'ero. Tu c'eri? Va bene. Va bene, ragazzi. Matteo che suonerà anche lui a Zero Covid martedì prossimo. No, no, martedì no. Prossimo, sì, sì. Martedì prossimo con Fabrizio Zingaro, con... Andrea Garrone, e faremo uno spettacolo in acustico, e chi vuole venire da Padova è un attimo, venite sì, sì. Trovarci. Beh, noi veniamo, noi ci siamo, noi ci siamo. La sera lo offriamo noi. Se vieni invece venerdì o sabato a Sanremo, ci vediamo lì. Potrebbe anche essere una buona occasione. Ecco. Volevo solo dire una cosa su Zero Cover, perché anch'io sono molto affezionato a Zero Cover, c'è da 4 anni, sono 4 anni che conosco Zazza, no, forse 5 perché sì. Ha inventato dopo, diciamo, questa idea di Zero Cover, ed è una cosa che io ho sempre detto e continuo a dirla, per me è una cosa proprio vera, come la gente che ci partecipa, non sono cose organizzate per concorsi finti, per farsi vedere, per farsi notare, scopo di lucro, cose. È proprio una cosa vera, quando si va lì ad ascoltare o a suonare si suona per davvero, ecco, una cosa che mi dà molto piacere dire, e Zazza questo lo fa, ne parliamo spesso, quindi è vero, c'è bisogno di queste cose, comunque c'è bisogno di queste cose, sono sì, le sì. Cose che si fanno più volentieri, poi il lavoro è un'altra cosa, certo. Forse anche il lavoro, la musica magari, però è un'altra cosa, queste sì. Sono proprio le cose che si fanno volentieri, e ringrazio Zazza a nome di tutti gli artisti di Genova che sono stati coinvolti in questi 4 anni. Grazie a te, in questa avventura. Quanto ti ha pagato per dire queste cose? No, però siamo d'accordo, mi pagherà. Va bene, Matteo. Va bene, ragazzi. Allora io ti aspetto ufficialmente, ti aspetto il 21. Va bene. Ufficialmente mi aspetti il 21, sì. Vengo su, non so se verrò da solo o male accompagnato, ma comunque. Vabbè, ce lo confermerai, va bene. Ok, perfetto, grazie per l'invito della telefonata, ciao ragazzi. Ciao Matteo, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto per suonare? Altra bella sorpresa. Beh, insomma, non potevamo fare a meno. Insomma, siete una combricola, tutti amici. È bello. Il suo disco, tra l'altro, è meraviglioso. Sì, molto anche bello. Sì. Anche con lui, sai, è una vita che sono che in contatto. Conta, è che poi qui siamo talmente pieni di richieste che facciamo anche fatica ad accontentare tutti. Immagino. E quindi ci si sta bene, infatti. Esatto. Allora, cosa ci fate ascoltare adesso? Pioggia o sole, o vuoi qualcosa dal disco? Pioggia o sole. Pioggia o sole. Sì. Pronti. Ci incontreremo ancora e salutandomi sarà già tu. Una canzone nuova sarai più bella ancora e balleremo ancora sotto un bacio senza fine. E poi se piove è meglio due sotto l'ombrello, io respiro e ti amo, pioggia o sole ti amo, canto ancora ti amo, suono ancora e di più, sogno ancora di amarti di più. Che non son passati giù, tu sei sempre più bella, scridi, piangi, dormi, o mani i tuoi pensieri su una stella. Ta-ra. Ta-ra. Io respiro e ti amo, pioggia o sole ti amo, canto ancora e ti amo, suono ancora e di più, sogno ancora di amarti. Tutto tuo, la considerazione che come al solito. Allora, due cose da dire. Prima cosa, che nel disco pioggia e sole hai fiati. Sì. E qua chiaramente i fiati non ci sono. E qua il fiatone. E qua il fiatone. E qua la versione che avete fatto qui dal vivo è chiaramente impostata sempre in questo humus sudamericano che fa bene alla salute, che dà un certo brio e una certa vivacità. È bello, sono divertente. Diverse, sì, sono sì. Diverse. Beh, l'importanza di Zaza e della sua band è quello di cambiare in corsa. Sì. Poi noto anche ultimamente che ogni volta che la canto in maniera diversa, a volte, esattamente, mi accorgo proprio cantando, dico questa da dove è uscita, ma mentre canto sto pensando perché la sto cantando. A volte mi faccio più prendere che pensare. Ecco, sentiamo in fondo, esatto. Ascoltiamo 30 secondi. Vai. E poi se piove meglio sotto l'ombrello, io respiro e ti amo, pioggia o sole ti amo, canto ancora e ti amo, sono ancora e di più. Di chi sono questi fiati? I fiati è sempre Rossano Villa che ha suonato in questo pezzo trombone. Sì, quindi fiati. Fiati e c'è sempre Saverio, ma la spina, la batteria è proprio diversa perché non c'è la batteria, non ci sono i fiati. Comunque il sì, sì, chiaramente l'arrangiamento un po' diverso, l'arrangiamento è totalmente diverso. Ci arrangiamo anche per i locali, quando il locale è più grosso ci si organizza in un modo, allora dice, allora se lì c'è la batteria, il piano e i fiati, certo, certo. Si può fare in un certo modo. ma siccome i soldini che girano sono sempre, sono quelli ci punto. Si adatta e si va. Ora facciamo una serata in un locale, prossima dove andiamo solo in due per esigenze di spazio, chitarra, pianoforte, e questa sarà il 22. 22. Prossima data 22. No, la prossima è il 16 a Bolzaneto. Quindi fra qualche giorno praticamente. Per il Sognautori, certo. Come diceva prima Antonio. Poi il 22 da Bacchus a Spezia, sempre io e Manuel. E forse ci sarà la partecipazione di Sarina, che mi sarebbe molto una cosa. Sarei molto felice. Sarina sarebbe Sara. Sara sì. La tua vocalist, o la vostra vocalist. Sì, che bella, sì. Poi è bellissima. Io sento cantare anche solo se la guardo. Ah, perfetto. Che bella questa considerazione. Complimenti. E poi cosa volevo dire? Poi le altre quali sono? Il 18 marzo c'è una cosa molto importante al mercato orientale di Genova. Sì. Vuoi raccontare la tua mano? Mano è vicino. I negozianti del mercato orientale hanno organizzato uno spettacolo di beneficenza in collaborazione con l'UNICEF. Per costruire una scuola in Senegal, se non erro. Ah, ho capito. E quindi ci sarà una settimana di eventi tutti i giorni, tra cui Zaza, appunto, and Friends. Che fisicamente sì, si vede, si nota. Quindi. Ah, ci sono 50.000 biglietti 50.000 in vendita biglietti. Per sì. Provare a contribuire a se vengono tutti non ci stiamo. Se vengono tutti. Dico. Però non ti dispiacerebbe. Però. No. Assolutamente. Soprattutto per la scuola, perché è una cosa dell'UNICEF, ricordiamo, è una cosa seria, certo. Importante. Molto importante. Sì, importantissimissima. Cioè venite il 18 marzo tutta Genova. E comprate dei biglietti. E comprate dei biglietti. Allucinamento. Cosa avete fatto? Una estrazione a premi poi? Cioè, sì, ci sono poi dei premi finali. Mm-hmm. Che non saprei ora dire. Si vince un abbraccio di Zaza. Si fa per il gesto, non per il premio. Quindi. Certo. Una cosa volevo chiederti, Zaza. Del 2011, nel 2012, l'anno scorso, hai fatto una cosa molto importante. Io sono un vecchio fan di Claudio Rocchi. Hai partecipato a un contest, un evento organizzato da Rocchi e da poi c'era anche come in giuria Maroccolo che è il suo partner ufficiale adesso del disco nuovo. Come mai Rocchi ti ha scelto? Hai fatto l'iscrizione e hai battuto, se usiamo un termine sportivo, tra 150 band sei arrivato terzo. È una cosa molto molto interessante. Dico la verità, è nato quasi per caso, come tutte le cose belle. Davvero sto scoprendo con gli anni che quando sentivo dire questa frase non ci credevo, invece è così. E io ero in negozio, stavo lavorando, è arrivato un signore che poi ho scoperto essere un autore, anche lui si chiama Felice Facile, è un autore di canzoni. Per esempio di Andrea Jobs, uno che faceva X-Factor anni fa, ha detto: senti, c'è a Roma questa bella manifestazione, perché non provi a mandare qualcosa a questo indirizzo di me? C'era un bando. Ha detto: sì, non lo so, era un periodo che stavo già pensando a Zero Cover, un sacco di cose da fare, però ho provato a mandarlo, ho detto ma sì, dai, lo mando. Poi ho visto i nomi che c'erano, ho scoperto chi erano, ho detto perché sarebbe bellissimo poter essere ascoltati anche solo una volta da queste persone, no? E andare giù col gruppo, poi purtroppo non è stato possibile per impegni vari di tutti, se no avremmo vinto ovviamente. No, siamo andati giù così e ho avuto la fortuna di essere Claudio Rocchi. Infatti alle prove dei suoni c'erano dei giornalisti, c'era Pier Giuseppe Caporale che è stato uno dei soci fondatori, no? Sì. Del Tenco, certo. Susanna Schimperla, giusto, Claudio Rocchi, Gianni Maroccolo, dei CS, sì, di FIBA ne ha fatto i tricolori, in senso positivo, certo. E infatti quando a San Cecco ho saputo questa cosa ho avuto un attimo un blocco. Ho detto no, fai finta che non ti ho detto niente. E poi ci siamo divertiti moltissimo. Teatro Lo Spazio è un bellissimo teatro, Francesco Verdinelli che ha organizzato questa cosa in questo posto bellissimo, che ogni tanto tartasse, dico ti prego fammi tornare a suonare a Roma perché mi piace la romanità in genere. Mm-hmm. E poi poterci suonare ancora meglio. Ancora meglio. Io amo i romani, sì. Sì, sì. Sono pienamente d'accordo. Ed è stata una bellissima esperienza, sono capitato terzo. Ed è stato terzo su 150, quindi una e bella. Poi c'è stato anche Gino Santercoli, che è stata la cosa bellissima. Quando ha sentito così si è quasi emozionato e lì io per me sono arrivato primo. Ah beh, certo. Certo. Fantastica. Chi non lo sapesse, ha scritto La carezza in un pugno. Sì, Gino faceva parte del clan. Il clan, sì. Lo zio di Celentano. Poi dopo siamo andati, c'è stata una spedizione, ci hanno portato a mangiare a casa, abbiamo fatto pasta e fagioli alle 4 di notte. e lì è continuato il tutto. Ho conosciuto altre persone molto interessanti, insomma Roma anche ne sa. E tanti da Roma ci scrivono per venire a suonare a Zero Cover. Vedo che sta diventando quasi un punto di riferimento, una cosa incredibile. Cioè, 4 anni fa non l'avrei mai detto. Questo ti fa onore. C'è gente che ha voglia di, come dire, farla suonare lì, che è, non sono so, sicuro, la Mecca della musica d'autore. Genova è una grandissima città. A volte ci sputiamo sopra, io per primo, che magari vengo lì, magari preso da attimi di sconforto, dici, ma chi me lo fa fare, chi non me lo fa fare. Però poi vedi che vale la pena fare le cose. Volevo ricordare che se andate a vedere sul Facebook di Zero Cover Genova, ora c'è anche questo bellissimo disegno che ha fatto Ruben Esposito, che è un altro cantautore, scultore, pittore, tutto da scoprire. Se andate a vedere i suoi lavori, è una persona molto interessante, scenografo, ha fatto anche cose per con Vinicio Capossela, ha fatto sculture, è un bel artista da scoprire che secondo me potrebbe ripassare anche di qua. C'è una canzone particolare, si chiama Amore d'Agosto, che ho messo da poco su YouTube, che è tutta da sentire. A me piace proprio parlare anche degli altri, perché vedo che poi questo fare bene porta bene. Certo, okay. Certo. Sono perfettamente. Noi faccio un po' di volontariato musicale. È la nostra filosofia, qua dentro la filosofia che tu hai detto è la nostra filosofia, certo. Di questo, di Blu Radio Veneto e in genere di Rock Wave o di Blue Time Live, assolutamente. Certo. Ci ripassiamo un pochino, facciamo ascoltare qualcosa dal disco. Ora c'è Ora Lei. Ora Lei è uno dei pezzi a cui siamo un po' più affezionati, un po' tutti, da sentire dall'inizio alla fine della coda. E noi facciamo così, l'ascoltiamo dall'inizio alla fine. Guarda. Prenderai in braccio tuo figlio che ti verrà incontro correndo e gridando papà. Toccherai finalmente l'amore vero con mano, e non credevi avesse mani così piccole. Ora un raggio di luce è sugli occhi di tua moglie, dorme sul divano e prende il colore del tuo orgoglio, e appenderai alle pareti di casa qualche quadro finito una domenica pomeriggio. E in quella stessa galleria e in quella galleria ora lei si scioglie i capelli per te, ora lei si scioglie i capelli per te. E abbandonarsi dentro al sole, sopra il dondolo in giardino, respirare dolcemente come fa di notte il vento tra il tiglio ed il pino. E ora che ti abbraccia forte non pensi più al tuo primo amore, ma solo a queste mani che han cambiato la tua sorte. E vostro figlio farà il pazzo per star nel letto insieme a voi, e guardandovi negli occhi ripenserete a quella notte in cui creaste quest'istante. Ora lei si scioglie i capelli per te, ora lei si scioglie i capelli. Uomo felice con sé, e chissà se in Danimarca, giù in Brasile o per di qua, avresti trovato comunque chi ti cancella il cielo mettendoci il suo volto, ma non importa perché. ora lei è tutto il mondo per te. Ora lei è tutto il mondo per te. Perché ora lei si scioglie i capelli solo per magia pura. Blue Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Ti confesso che mi veniva voglia di abbassare le luci. Un'atmosfera splendida questa. Bene, sì, sì. Zaza. Questo hai detto bene, magia pura, sono d'accordo. Cioè, tutto quello che c'era da dire l'hanno suonato alla coda di questo pezzo. Ancora lo ricito, che è Francesco Villani, che io gli voglio un bene dell'animo, un ragazzo fantastico, uno chef della Madonna e un pianista che non esistono altri. Andremo poi a mangiare da lui. C'è ancora Pino Ciccarelli, che è sassofonista e leader dei Concerto Musicale Speranza, che sono una band, una banda, perché sono una cosa fantastica da scoprire su internet. Io li ho conosciuti lì e hanno partecipato anche loro, Massimo Capocotta, ha suonato anche le fisarmoniche in altri pezzi, e poi ancora Saverio Guaraspina e tutti quanti, davvero io li volevo ringraziare. Fabio, una volta Biale. Fabio Biale, sempre il violino, ma in questa coda particolare c'è molto, davvero molto molto amore. E io l'ho sentito e ti vedevo che quando sì, sì, io parto quando li sento, poi sei, sei molto emotivo tu, eh? Io sì, per questo sì, bello, insomma, sapere volendo che fare queste canzoni il minimo che devi, certo, essere è emotivo, le senti proprio dentro di te le canzoni. Sì, assolutamente, è la cosa più bella, ve lo posso garantire. Senti, ci regali allora una chicca? Guarda, la chicca invece che questa canzone è Carnevale, che in realtà è un vecchio nostro cavallo di battaglia, che poi andrà nel secondo disco, che si chiamerà L'Eredità, come raccontavo, che ho trovato questi nastri in questo trasloco che ho fatto, che c'è mio nonno che era un poeta, e mio padre suonava la fisarmonica la sera con loro dopo pranzo, dopo cena facevano queste cassette e le mandavano a mia madre, che era ancora a Napoli prima di venire, e io ho trovato queste cassette e queste canzoni le sto facendo un po' più in chiave moderna, certo, tenendo sempre un po' fede alla lingua comunque napoletana, farò del mio meglio e mi farò aiutare, starò giù un paio di mesi e niente, questa comunque apre questo disco che comunque si va a integrare a questo futuro progetto che si chiamerà Credo L'Eredità, come avevi annunciato. Sì, come avevo annunciato, lo suoniamo in poi lo verrai a presentare qui, vero? È ovvio, grazie, sicuramente ci passiamo. Siamo a Carnevale, quindi è giusto che la canzone si intitoli, sì, Carnevale. Felicità, nel cuore mio la sento, sì la sento, e vuole cantare. E se è grigio il cielo, ci penso io con un motivo, che gli parli un po' di te. Stringimi più forte, finché questa rossa sera non diventi dolce, no. La fortuna mi ha baciato un'altra volta, sulla testa proprio come hai fatto. Una spiaggia e una canzone da cantare, mille sogni se la vita dice no. Il mare suonerà per noi tutta la notte, quelle note che ispireremo noi. Svegliato dall'azzurro giallo e dagli occhi neri, andare via per mare, darsi una carezza, un bacio e poi quella salita non c'è, un'altra ancora per capire se era vera, quell'intenso attimo d'eternità. Un carnevale dentro il cuore, un carnevale dentro il cuore, non scherzare col mio cuore, pure tu. Così abbiamo avuto anche questo regalo dal prossimo questa disco, questa chicca, questo nuovo pezzo, anche se un nuovo ripreso da un po' di tempo, però sì, nuovo sarà nuovo, è un anticipo, perché in realtà il nuovo arriverà presto, cominceremo a lavorarci presto. Vabbè, noi siamo qui ad aspettare. Grande, intanto vi ringrazio tantissimo. Grazie perché mille. Si sta veramente bene, si suona bene, si sente benissimo anche tecnicamente. Ci abbiamo messo un lampo. Abbiamo Agostino in regia. Fantastico. Tutto bello. Fantastico. Vabbè, siccome mancano pochissimi minuti alla chiusura del programma, io direi di parlare pochissimo, cioè di lasciare spazio subito alla canzone che apre il disco, cioè da questa così ci ascoltiamo Piccole Cose. Piccole Cose racchiude un po' tutta la Zazza filosofia, cioè Piccole Cose. E poi torniamo in studio e ci salutiamo. Grazie. Il rumore di quei sandali ritornando a casa dopo il mare, e in silenzio pensare a cosa farsi da mangiare. Una cosa nella tasca che oramai credevo persa. Ritrovata lì ed esserne contento così. Non avere fretta a volte può essere un vantaggio, far della paura tutto il tuo coraggio, svegliarsi nella notte e bere un bicchiere d'acqua, aprire le finestre e il vento ti sfoglia un'altra faccia. Suo sorriso mentre glielo dico. Viaggiare nella notte e avere già negli occhi la luce dell'arrivo. La vita è fatta di piccole cose. Ti sorprende e ti stupisce come un gusto nuovo, come un mattino, la corsa inesauribile dei bambini che non sprecano energie nei pensieri, e guardarli mi toglie anche a me. Pensare che pensare è una fortuna solo se a te. Solo se a te. L'inizio dell'idea di un sogno che a volte è meglio del suo compimento. La vita è fatta di piccole cose. Bastano per vivere se riconosci quelle per te. La vita è fatta di piccole cose. Un gesto gentile, una giornata d'aprile passata con te. La natura che ti sbarra gli occhi e ti chiude la gola e ti lascia così, così senza dire una parola. vita è fatta di piccole cose. La vita è fatta di piccole cose. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. È la prima perla del disco questa, in pratica, vero? Sì, apre il disco. Zazza. Bellissima che questa. Sì, molto... sì. E Dario l'ha voluto così. Ha detto prima piccole cose, poi e poi fai quello, sì, che vuoi. Ordini. Ma c'è anche là, ci sono gli archi, c'è il violino del bravissimo Fabio Biale. Fantastico, sì, noi l'amiamo proprio. Matteo Caso, non l'abbiamo citato, tra anche altri musicisti, un altro chitarrista bravissimo. E li ringrazio tutti un'ennesima volta, e ancora tutti quelli che verranno, con intenzione di allargare gli orizzonti totalmente. La grande famiglia di Zaza. La grande famiglia. Zaza Family. Allora. Zaza Family. Zaza e Friends, come Zaza diceva Manuel prima. Sì, perché poi alla fine è quella la forza. Certo. Non è altro, perché i soldi non ce ne sono. Però sai, chi semina bene raccoglie bene, cioè, sì, voglio dire. Tu stai seminando bene con i tuoi... Sì, che poi è semplicemente quello che mi piace fare, vedo che... Ma anche tu sei un bel personaggio, insomma. Oltre ad essere bravo, sei un bel personaggio, voglio dire, sei un ragazzo semplice. Sì, sì, assolutamente. A volte la gente non la capisce questa semplicità, lo so. Pensano ci sia sempre dietro qualcos'altro, certo. Come ti dicevo di Zero Cover. Certo, dunque, certo. Vorrei ricordare l'ultima volta Zero Cover, che vuole, certo, contattarci, Zero Cover Genova su Facebook, c'è il sito in costruzione anche, che ricordiamo quello... in pratica che cos'è, è un movimento musicale di inediti indipendenti che si svolge quest'anno a Genova, nel locale Il Kitchen, che è in piazza San Donato, è in via San Donato, proprio in piazza L'Erbe, proprio il centro del centro storico, come mi piace dire, più al centro del Kitchen c'è solo la verità. E lì ci sono tutti i martedì gente che fa musica propria e la fa Zero Cover, e siamo un'associazione culturale che si lancia in queste cose, questo spazio come fate voi, noi lo facciamo dal vivo, cominciato tra amici e ora stiamo crescendo. Vorrei ricordare il mio personale, che sono il direttore artistico di questa cosa, comunque anche per sentire la nostra musica, il canale YouTube di Zaza Esposito, è lo stesso nome anche su Facebook, e dove potete trovare anche tutti gli altri musicisti, con Dario La Forgia, che ha suonato per voi il basso. Grazie ragazzi. Il Laffo, Simone Besutti percussion, alle percussioni Scoppietto. Grazie, grazie, grazie. La prima serata, Manuel, io vi farei come sono, un applauso con noi, grazie. E ti ringraziamo. Io volevo dire una cosa a Simone, comunque. Vai. Ha già preso il dialetto veneto, eh? Sì, ha già preso. È vero, è vero, si sente. Ha già preso. Non è mica vero, ma... No, me l'hai detto prima, sì, per quello, no. Che... Vabbè, Manu è la prima serata extra Tonio. Sì, sì, è una serata importante e con un velo di malinconia. E saluto ancora Antonio. Grande. E grazie per essere ritornato. Che hanno chiamato. E grazie anche a Dario, insomma, ovviamente. Grazie a voi. Sei una persona che tutti dobbiamo ringraziare sempre. Dimmi. Perché ci possiamo guardare negli occhi e parlarci, che è la mamma. Certo. Voglio la sua, e io per la mia io ho scritto questa bella canzone che si chiama Uè Mamma, che è la canzone che ci saluti, questa Uè Mamma. Sì, con questa. Bene, allora noi salutiamo e congeliamo a malincuore, perché le due ore sono passate velocissime questa sera. Salutiamo Zaza e i suoi cari amici e ci ascoltiamo appunto l'ultima canzone che ci propone Uè Mamma. Maurizio, noi ci diamo appuntamento giovedì prossimo. Sì, giovedì prossimo ritorneremo col musical, chiaramente, e poi lo gestiremo giovedì prossimo. Va bene, allora non mi resta altro che salutarvi e darvi l'appuntamento a giovedì prossimo, appunto, con questo musical Casanova, una grande produzione, sempre qui, sempre a Blu Radio Veneto, dalle ore 21 con Agostino e con Maurizio. Buonanotte a tutti. Uè mamma, uè mamma, uè mamma, yo. Uè mamma, uè mamma, you got uè mamma, yo. Uè mamma, com'è caldo questo giallo sol. Uè mamma, neanche il cielo vale un tuo profilo. Uè mamma, non c'è rosso tramonto stivo. Sì mamma, neanche il cielo vale un tuo profilo. Questo samba mamma nasce dal tuo sorriso. Grazie, grazie mamma, a te che sono vivo. E stasera, neanche sembri vero, stasera, no, non sembri vero. E saranno sì i tuoi occhi così. Quello che c'è dentro la penna scrivo. Sai mamma, per le strade, per il mondo vivo. Sì mamma, quella che però viene lì da te. Sai mamma, la percorro sempre col sorriso. Questo samba mamma nasce dal tuo respiro. Grazie, grazie mamma, a te che sono vivo. E stasera neanche sembri vero, stasera, no, non sembri vero. E saranno sì i tuoi occhi così. E stasera neanche sembri vero, stasera, oh, non sembri vero. E saranno sì i tuoi occhi così. Mama, way mama.